11.31, 16 novembre 2016, 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Noi siamo in collegamento con un compagno del circolo anarchico vesuviano, dove ieri è avvenuta un'aggressione ai danni appunto dei compagni e delle compagne del circolo. Ci facciamo raccontare meglio da lui cosa è successo ieri a Ercolano, che ricordiamo si trova in provincia di Napoli. Ciao Agu, buongiorno. Niente, in sostanza ieri mattina a Ercolano c'è stato un picchetto antisfratto compiuto da Casa Pound e addirittura qualche militante del Movimento 5 Stelle, ovviamente senza bandiere. La provocazione era già palese perché il picchetto era stato annunciato e il palazzo, diciamo, picchettato è molto vicino al suo circolo anarchico Vesuvio Libertario. Durante il picchetto due macchine con 4-5 militanti di Casa Pound all'interno sono arrivati fuori al circolo, molto coperto, mazze e bastoni, hanno cominciato a provocare e a picchiare contro le porte del nostro circoletto. Sono usciti i compagni, che erano soltanto 4 in quel momento all'interno del circolo, e ovviamente hanno risposto alla provocazione. Uno di Casa Pound è gravemente ferito in ospedale alla testa e spaventati dall'accaduto si sono rintanati all'interno del circolo e sono rimasti barricati all'interno. Ricordiamo che è un posto dove la mattina è frequentato da bambini, da ragazzini che ci fanno il dopo scuola e ci fanno attività ludico-ricreative. Ovviamente è un circolo a vocazione soprattutto politica, però il quartiere l'ha interiorizzato bene e quindi lo frequenta tutti i giorni dalla mattina alla sera. Devo dire che il quartiere ha risposto benissimo sin da subito, facendo scudo anche con le forze dell'ordine fino a che ha potuto. I compagni sono cominciati ad arrivare solo nel tardo pomeriggio, quando insomma si è fatto un folto gruppo di compagni venuti sia da Napoli che dalle province circostanti, e siamo riusciti intorno alle 7:30 a far scappare questi 4 ragazzi che erano all'interno. Loro non hanno voluto né avere rapporti con politici, quindi consiglieri comunali, con il sindaco che è arrivato per qualche minuto, ovviamente non hanno voluto mediare con le forze dell'ordine e non hanno voluto avvocati per una scelta presa da loro 4 all'interno dello stabile. Diciamo, siamo riusciti a farli scappare facendo un po' scudo con le forze dell'ordine in un momento in cui erano meno attenti, anche perché avevamo saputo che stava arrivando la cenere da Napoli, insomma, quindi una volta arrivato l'antisommossa sarebbe stato molto difficile farli uscire dal circolo. Due di loro ce l'hanno fatta, due invece sono stati presi durante la fuga. Gli altri due ovviamente non sappiamo dove sono, hanno spento i telefoni, però immaginiamo che stanno respirando sicuramente una bella aria fresca di libertà. Allora, diciamo, intanto i fatti si commentano da soli per certi aspetti, nel senso che continuiamo a vedere e a raccontare da questi microfoni di aggressioni fasciste. Noi ti mettiamo al corrente appunto che parlando di una rivista che si sta diffondendo nelle scuole, Leggi Scomodo, qui a Roma, durante una loro iniziativa sabato sera c'è stata un'aggressione appunto 10-2 da parte di alcuni fascisti del quartiere di Monte Mario, e questo semplicemente per anche trasmettere a te quello che è un sentimento diffuso oggi nella necessità di trovare delle contromisure rispetto a questi soggetti che stanno cominciando a rialzare la testa. Spesso si fanno delle valutazioni forse un po' semplicistiche, almeno qua nella città di Roma, rispetto all'agire dei fascisti, cioè che escono fuori per la campagna elettorale di turno per poi tornare rintanarsi durante il resto dell'anno. In realtà diciamo che sicuramente da quest'estate ad adesso si stanno moltiplicando le aggressioni e le iniziative, almeno qui nella città di Roma, e ai danni appunto degli antifascisti e delle antifasciste. Io ti chiedo anche un po' più in generale parlare di quella che è la situazione oggi a Napoli rispetto a queste formazioni. Sicuramente Napoli da questo punto di vista non ha la stessa storia storia di Roma, non ha nemmeno forse l'eterogeneità di tutte queste formazioni fasciste che ci sono nella capitale, però sicuramente è un problema sentito anche nel capoluogo campano. E tra l'altro, appunto, adesso parlando mi venivano anche in mente di altre corrispondenze fatte con compagni e compagne di Napoli sul tema, quindi anche se ti va di darci una fotografia un po' più ampia dell'antifascismo a Napoli e ovviamente in provincia. Guarda, fortunatamente Napoli resta una delle città in Italia dove la presenza dei gruppi fascisti è veramente esigua, anche se negli ultimi anni cominciano a farsi vedere sempre più spesso. È esigua ma variopinta, variegata, perché se a Napoli città c'è Casa Pound, insomma, che è il gruppo più grosso, in provincia abbiamo incontrato addirittura Forza Nuova, Milizia, che sono formazioni più a destra di Casa Pound e in alcuni casi formazioni ancora più a destra di Forza Nuova. Quindi abbiamo a Torre del Greco, qui proprio vicino a Ercolano, c'è questa formazione che sono veramente matti, sono molto violenti. Sostanzialmente quello che fa paura è che questi qua stanno cominciando a parlare con le parole d'ordine che sono sempre state storicamente di sinistra. Parlano addirittura te li trovi ai picchetti dell'antisfratto, quando a Napoli, fortunatamente come a Roma ormai da 10-15 anni, ma a Napoli sono 4-5 anni che c'è un collettivo, un movimento che si occupa di occupazione casa e antisfratto, che è molto presente in città, e sembra provocatorio anche questo, insomma, da parte di Casa Pound venire a fare il picchetto contro lo sfratto in una città, diciamo, abbastanza equipaggiata per determinate questioni. Fortunatamente la gente, soprattutto nei quartieri, risponde bene a ogni provocazione fascista, a parte, insomma, il quartiere dove loro hanno la sede qui a Napoli, che è vicino al centro storico, però in tutti gli altri posti dove questi energumeni si fanno vedere, la città ha sempre risposto bene e ha sempre difeso a spada tratta chi si è opposto alle logiche di questi signori. Dico questo però con la consapevolezza che questi qui fanno accordi con i partiti, fanno accordi si presentano alle elezioni insieme alla Lega. La Lega, che sembra incredibile, ma cominciano a spuntare sedi della Lega Nord anche qui al sud, quindi mi sembra veramente un ossimoro, un controsenso. E tutto questo in una fase in cui un governo di centrosinistra, che dovrebbe essere, insomma, in qualche modo di centrosinistra, ma spalleggia fortemente anche chi reprime e chi opprime. A questo proposito volevo proprio ricordare che il picchetto di ieri è stato fatto sotto il Palazzo Comunale. Il sindaco è un renziano della prima ora e sotto il naso ha fatto sventolare bandiere di Casa Pound senza alzare un dito, anzi proprio girandosi dall'altro lato. Quindi è una situazione che è da tenere sotto controllo e non è da sottovalutare. Voglio solo ribadire che fortunatamente tutte le volte, anche perché qui a Napoli anche negli ultimi mesi si sono susseguite un po' di aggressioni, ne ricordo una al Vomero qualche mese fa, dove un compagno è stato pesantemente, ma brutalmente pestato, testa rotta, ospedale, però fortunatamente, insomma, il quartiere, come dicevo prima, ha risposto bene, la città risponde bene e puntualmente quando si fanno vivi questi signori sa come ricacciarli. Beh, io ti ringrazio per la corrispondenza, per il racconto dei fatti successi ieri. Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questi secondi, un'aggressione fascista a Ercolano, sotto la sede del Circolo Libertario Vesuviano. Noi ringraziamo il compagno per averci raccontato quanto successo e anche per una fotografia un po' più ampia rispetto a quello che è l'antifascismo oggi nel capoluogo partenopeo. Noi ti ringraziamo. Noi adesso continuiamo la nostra lezione musicale. Questa è la canzone per Renato Biagetti. Oggi Renato avrebbe compiuto 36 anni, quindi quando parliamo di antifascismo, quando parliamo della violenza messa in campo dai fasci, parliamo di qualcosa che è molto reale. Renato è scomparso appunto appena 10 anni fa. Noi ci teniamo a ricordarlo nel giorno del suo compleanno con questa canzone delle Bestie Rare per altri 100 anni. Tanti saluti a pugno chiuso, ciao ragazzi.